Al-Ala, l'Altissimo. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Glorifica il nome del tuo Signore, l'Altissimo. Colui che ha creato e dato forma armoniosa. Colui che ha decretato e guidato. Colui che fa germinare i pascoli. E ne fa poi fieno scuro. Ti faremo recitare il Corano e non dimenticherai illa ma shaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Se non ciò che Allah vuole, egli conosce il palese e l'occulto. Wa nuyassiruka lil yusra. Ti faciliteremo la via più facile. Ricorda che il ricordo è utile. Se ne ricorderà chi teme Allah. E solo il malvagio se ne allontanerà. Brucerà nel fuoco più grande in cui non morrà e non vivrà. Avrà successo chi si sarà purificato e avrà ricordato il nome di Allah e assolto all'orazione. Ma voi preferite la vita terrena mentre l'altra è migliore e più duratura. In verità ciò è nei fogli antichi. I fogli di Abramo e di Mosè.